Arresto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, 1:59 del mattino, è sabato 20 ottobre del 2018 e stiamo festeggiando un altro sabato sera, un'altra lunga notte qui al convento di Lunato. E come sapete il nostro è un locale che ospita tutti quelli che hanno voglia e motivo soprattutto per festeggiare, quindi celibati, nubilati, compleanni aziendali, ma anche e soprattutto tante cene di classe o coscrizioni, che dir si voglia. Abbiamo alcuni rappresentanti di una di queste, anche questa sera ce ne sono tante. Loro sono la classe, diteci un po'. Classe 78 Caldogno. 1978 da Caldogno, maschi e femmine vedo, anche se qui abbiamo un unico sopravvissuto, perché bisogna capire se gli altri sono a caccia o sono troppo vecchi e quindi hanno mollato prima. Vediamo, vedremo. Allora, Caldogno Vicenza, intanto sottolineiamolo anche geograficamente. Vai, facciamo un giro di presentazioni veloce, così vi conosciamo. Roberta, Katia, Deborah, Sara, Giovanni, Chiara e Giulia. Chiara e Giulia, ok, vedo anche due o tre esponenti che sono assolutamente in tema col nostro studio, perché due hanno i capelli rossi, lei è rossissima, quindi perfette, siete assolutamente perfette per questa zona. Allora, intanto domanda che ci piace sempre fare, soprattutto perché la risposta è sempre molto bella: come si riesce dopo 40 anni o comunque giù di lì a trovarsi ancora, insomma, avere modo nonostante impegni, vite, famiglie e tutto il resto, però anche perché siete tanti, più o meno quanti? Una ventina, no? 25. Più o meno una ventina. Quindi dopo 40 anni cosa tiene ancora unito un gruppo del genere? Il valore di dirsi classe. Bom, questa è veramente incredibile. Questa io ripeto. Siamo, no? Io ripeto. Mi spiace perché è brutto spesso fare le stesse domande, ma questa la faccio sempre proprio per il gusto di sentire la risposta, perché spesso sono le risposte più belle e questo valore di sentirsi classe, diciamo che scala velocemente le posizioni della mia classifica personale. Come mai? Allora dai, spiegacelo un po' meglio, raccontacelo un po'. Beh, adesso prenditi le tue responsabilità. Passiamo agli altri adesso, no? Beh, racconta, poi facciamo sentire loro. Puoi tagliare. No, tranquillo, puoi prenderti anche una pausa a riflettere, non è un quiz. Sono dei valori portati dai nostri anziani, papà, mamma, sì? E tutti quanti che vediamo che lo fanno loro e loro lo facciamo anche noi. Ok. Sempre meno però. Ok. Quindi voi cercate comunque di mantenerli, una sorta di tradizione che vi hanno trasmesso. A Vicenza. Ah, proprio nella vostra zona. Nella nostra riuscite. Zona, sì. Specialmente a Caldogno, il paese di Roberto Baggio. Bravo, ricordiamolo per gli appassionati di sport, perché è giusto dirlo. Ma ogni anno anche riuscite a raggiungere questo numero? Ogni cinque. L'organizzate? Ogni cinque. Però, bravi, vedi, c'è questa tradizione. E altra domanda, così mi è venuta in mente: come si è evoluta l'organizzazione nel corso degli anni? Perché sono sicuro che adesso c'è il gruppo WhatsApp. Sicurissimo, ok? Quindi come si è evoluta nel corso? Passaparola. Ok, iniziata col passaparola. E però come fai a dire ci troviamo il tal giorno nel tal posto, confermatemi, entro. Ho passato da persona a persona o via. Ah, veramente? Tipo c'è posta per te? Bravissimo. Cioè, quindi uno parte, cioè uno che decide di prendersi l'onere di organizzare parte, scrive e comincia a passare a uno che poi dice: vabbè, aspetta, conosco quello, passa all'altro. E l'organizzatore è sempre stato lui. Ah, no, sempre stato. C'è anche qualche altra ragazza. Vabbè, però diciamo che in ogni gruppo, come giusto che sia, c'è quello che tiene le fila e che tira un po' il sempre gruppo. Sempre uno che beve. Vabbè, anche, certo, come sempre. E poi guarda che alla fine, nonostante l'età, nonostante le differenze geografiche, nonostante le varie idee, comunque i gruppi sono sempre composti da quel tipo di persone lì, cioè. Qui che beve? No, in ogni gruppo c'è quello che beve, in ogni gruppo c'è quella un po' più pudica, un po' più, come dire, elegante. Siamo un gruppo omogeneo. Poi una parte che beve e una che è sana. Ah, è sana, giusto. Capito. Quindi vi compensate e fate l'equilibrio. Stasera è sano. Giusto, esatto, giusto. Stasera siamo sanissimi. Stasera siamo tranquilli. Ok, quindi siete tranquilli. E quindi poi dicevo, ci sarà sicuramente il matto del gruppo. Certo. Ci sarà... Non possiamo dire il nome. No, beh. Un paio di esemplari. Ah, un paio addirittura di esemplari. Addirittura un paio. Abbiamo un paio. Però sempre nelle. Sì. Più o meno, dai. Sì, nella norma, nella norma. Ma è vostro. Bene. No, chiedevo se era vostro l'esemplare di ballerino o extra large che. No, non era vostro. Quello con la camicia bianca. No, che c'era il tipo l'uomo gonfiabile. No. Ah, ok. No, ok, no, perché si è aggirato nel locale e tutti l'abbiamo scambiato per lo sposo della serata e invece ho detto no, io ho deciso di vestirmi così. Numero uno. E quindi dicevamo, allora, la partenza con questo fogliettino che poi girava da persona a persona, poi nell'arco degli anni com'è cambiata la cosa? È diventato WhatsApp quindi negli ultimi anni. Ok, quindi c'è sempre stato il fogliettino fino a quando è arrivato il cellulare. E il gruppo WhatsApp lo usate solo per comunicazioni inerenti alla classe o c'è tipo lui che mette la foto, quella battuta divertente? Non pubblica niente. Quasi. Quindi rimanete seri, ligi, sì, solo all'organizzazione, sì. Cioè non si divaga mai. Qualche volta. Forse domani si divaga. No, chiedo perché ad esempio noi del locale, che abbiamo anche noi un gruppo, ne abbiamo addirittura tre. Perché uno per le comunicazioni importanti, uno per le comunicazioni di lavoro e uno follia totale, esatto. Quindi è per questo che cercavo di capire se siamo gli unici malati ad avere tre gruppi con le stesse persone, cioè comunque con le stesse persone dentro. Ah, due. Due. E cosa differenziano dall'altro? Uno è quello popolare. Okay. E uno sono i selezionati. Che Madonna. Siamo qua stasera. Selezionati, cioè la lista. La lista, come si dice? La creme. La creme della creme. Bello. Allora, volete dire qualcosa? Volete mandare un messaggio? Non so, salutare qualcuno. Ciao mamma! È giusto. Anche questa tradizione è da mantenere, certo. Okay. Tu giustamente dici, non so se avrò mai modo di andare in Rai o a Canale 5, quindi adesso che c'ho il microfono faccio quello che dicono tutti. Se qualcuna... potrà riascoltarti nei prossimi giorni col podcast. No, dicevo, se qualcuna di voi vuole augurare la pace nel mondo, insomma, quelle cose lì da Miss Italia, potete farlo. No, a parte gli scherzi, insomma, se volete dire qualcosa. Salutiamo anche quelli che non sono venuti stasera. Esatto, ciao a tutti, classe 1970. Che non sanno quello che si sono persi. Che non siete persi una serata magnifica. Brava, metti proprio il dito nella piaga, cioè fallila pesare. Quindi prossimo appuntamento 2023? Ai 45. Quindi voi festeggiate multipli di 5, cioè 0 e 5. Siamo un gruppo che proviamo da tante realtà e non ci troviamo solo per queste situazioni. Realtà di che tipo? Non uscite insieme? No. Ah, ok. Ci teniamo comunque a distanza. Bello. Cioè neanche per dire una combinazione di figli, scuole, corso di calcio. Abbiamo il legame dall'infanzia. Legato sia alla scuola dell'infanzia che alle elementari, alle medie. Sì, però nessuno esce con nessun altro, a piccoli gruppi. Bello, veramente bello. Tra l'altro poi mi preme anche sottolineare che alle 2:08 sono ancora belle vispe e pimpanti. Grazie. Quindi ancora diciamo che possono comunque competere con i giovani d'oggi. E questo è da sottolineare. E dai, velocissimo, poi andiamo in chiusura. Cosa fate nella vita? Io la psicologa e la psicomotricista. Lavoro con gli anziani. Io vendo caffè. Fisioterapista. Massaggiatore. Lavoro nel settore dell'agricoltura. Avvocato, bene, vedi che anche qui abbiamo un po' di tutto, chi lavora con la mente, chi lavora con le mani e vabbè, lei sì, si prende tutti i casini del mondo. E bello, bene, mi fa, vedi, è bello comunque questo spaccato di vita normale. Allora, grazie mille ragazzi, non vi auguro buonanotte perché da quanto vedo avete ancora energia e voglia per festeggiare. Quindi vi auguro buona fine festa, quello sì, l'unica comunicazione brutta che vi devo dare è che tra un'ora e un quarto chiudiamo, quindi mi spiace, oltre le 3:30 non riusciamo a portarvi, e mi so che stareste qui di più, però purtroppo queste sono le regole del gioco. In ogni caso grazie mille, grazie, e speriamo di rivederci nel 23, quindi nel 2023, ok? Va bene, grazie ancora, buonanotte! Ciao.